Ho letto che nel grande gioco a chi tira la coperta dalla sua parte, in cui si riduce con il centro-sinistra come con il centro-destra la preparazione della finanziaria, si è inserito con l'abituale autorevolezza il vicepresidente D'Alema. Inaspettatamente ostile per motivi che la stampa non ha precisato più di tanto, ma ognuno di noi è libero di ricostruire secondo la propria logica, a un eccesso di tagli al bilancio del suo ministero. Mi è sembrato anzi di capire che quel punto di vista è stato preso nella dovuta considerazione e che le decurtazioni previste sono già state portate a proporzioni più ragionevoli. È quello che succede, se mi permettete la facezia, quando in una posizione così delicata siede un ministro, come si dice, con i baffi. Fosse stato un altro, un personaggio da glabro malinconicamente glabro e dalle minori potenzialità politiche, la scure di Padoa-Schioppa si sarebbe abbattuta impietosa sulla Farnesina, ai nostri ambasciatori poveretti non avrebbero neanche potuto permettersi di rinfrescare i pennacchi sulle feluche o vicidare i galloni dell'uniforme di gala. Si sa, ci sono ministeri e ministeri. Alcuni sono delegati a fornire alla cittadinanza utili ma prosaici servizi, tipo istruzione, sanità, queste cose qua. E sulla necessità di tagliare i bilanci a quelli non c'è ormai obiezione che tenga. Lo raccomanda l'Unione Europea, lo sollecita la Banca Centrale, vi appuntano l'attenzione alle agenzie di rating, ne discetta il Financial Times. Altri, slegati dalla banale necessità economica del dare e dell'avere, possono sottrarsi a siffatte pressioni. Della distinzione bisogna tener conto. Il Ministero dell'Onorevole D'Alema, come specifico campo di interesse, alla politica estera, ed è la politica estera, diversamente che della sanità o dell'istruzione, lo Stato non può fare a meno. Naturalmente si potrebbe discutere a lungo sulla quantità e sulla qualità di politica estera che quella struttura produce. Molti ritengono che in 60 anni di storia repubblicana ne sia stata fatta ben poca. Nel senso che più che di dimostrare la propria estrema fedeltà agli Stati Uniti, i bravi titolari della carica non si sono mai preoccupati molto. Anche i governi di centrosinistra, secondo questo tipo di critica, non si sarebbero spinti un granché oltre. Tutti ricordiamo con abbastanza raccapriccio cosa fece lo stesso D'Alema durante la crisi serba del 99 e quanto agli eventi più vicini, quelli degli ultimi mesi, non è certo il caso di entusiasmarmi per una mediazione in Libano, che vista con gli occhi di oggi sembra molto meno mediatoria di quanto non ci sia stato fatto credere mesi fa, o per l'eroica astensione del nostro rappresentante alle Nazioni Unite nella scelta tra Guatemala e Venezuela in Consiglio di Sicurezza. È solidamente legata al carro della NATO, come dimostra in questi giorni la nostra partecipazione a certe strane manovre navali al largo dell'Iran, di cui poco si parla ma ci sono, priva dei margini di autonomia necessari per dire no neanche al Guatemala, l'Italia resterebbe sostanzialmente un paese a sovranità limitata, un paese vassallo cui poco o nulla servirebbe una complessa macchina diplomatica, essendo limitate le sue opzioni in materia all'assenso per il cadavere delle pretese della Condovisa di turno. Fare a meno della Farnesina comunque non si può, lo vietano le leggi e le usanze. Tagliarne il bilancio nemmeno, perché lo vieta D'Alema. E fare a meno di D'Alema forse potrebbe essere un passo nella direzione giusta, ma con quei baffi, Dio buono, come si fa?